Quello che abbiamo sollevato in Catalogna è una grande questione di democrazia. Quello che vogliamo è che il popolo di Catalogna possa votare liberamente e pacificamente il prossimo 1 ottobre e decidere il proprio futuro. La reazione dello Stato spagnolo è stata quella più di un regime autoritario che non di un regime democratico. Nelle ultime ore sono stati arrestati 15 rappresentanti del governo, alte cariche e tecnici, con l'accusa di essere partecipi nell'organizzazione di questo referendum. Il referendum è stato definito illegale dal premier Rajoy perché contraddice l'articolo 2 della Costituzione spagnola, è così? Quello che noi pianifichiamo e quello che solleviamo è una questione di democrazia. In democrazia, a livello politico, si può discutere di qualunque cosa. Il governo spagnolo si trincera dietro la illegalità quando ci sono studiosi di diritto costituzionale che riconoscono che non è illegale. Il diritto penale spagnolo è stato emendato con l'ultimo governo di Aznar alcuni anni fa, nel quale è stato depenalizzato proprio l'organizzazione di referendum. Organizzare un referendum non è considerato un reato, però malgrado questo, oggi 15 membri del governo sono stati arrestati. Il pugno duro di Rajoy adesso a questo punto quale potrebbe essere? Togliere l'autonomia alla Catalogna come ultima carta? Sinceramente, come le dicevo, già è stata superata questa linea rossa che separa regimi democratici da regimi autoritari. Può essere qualunque reazione. La nostra è quella di mantenere la nostra popolazione tranquilla, pacifica e di poter appunto votare liberamente il prossimo 1 ottobre. Questo è il nostro obiettivo, è il nostro impegno, è l'impegno che ci è stato dato con un mandato legittimo nelle elezioni del 27 settembre del 2015 e lo manterremo. Allora, la Catalogna comunque è una regione autonoma che ha una storia, ha una sua autonomia, ha una sua cultura, ha una sua lingua. Ci sono anche interessi economici su questo referendum, perché è una regione che è anche molto ricca rispetto ad altre regioni. Non è il fattore prioritario. Diciamo che effettivamente c'è una componente economica, se vogliamo, fiscale. Quello che è stato chiesto in questi 7 anni è quello di poter avere un tratto alla pari tra Stato e comunità autonoma, quello che è stato poi rifiutato dallo Stato centrale. Abbiamo chiesto ovviamente un tratto che hanno altre comunità autonome, ci è stato rifiutato. Abbiamo chiesto un nuovo statuto che proprio articoli di quello statuto sono stati cancellati dal Tribunale Costituzionale quando invece sono vigenti in altri statuti autonomi. Quello che vogliamo è che il popolo catalano possa essere considerato come sovrano di poter decidere sul proprio futuro. Voi chiedete un'indipendenza, però un'indipendenza all'interno dell'Unione Europea. E se voi non volete uscire dall'Unione Europea? Assolutamente no. Noi ci crediamo in Europa, ci sentiamo europei, i nostri cittadini sono cittadini europei, vengono rispettate tutte le normative europee, vogliamo rimanere dentro nella zona Schengen, nella zona euro, quindi il nostro impegno è quello di esserci. Uno scenario che lei prevede fino al 1 ottobre, quale potrebbe essere? Perché le proteste continuano e la tensione continua a essere molto alta. Sono manifestazioni pacifiche, l'invito da parte non solo del governo catalano ma di tutte le organizzazioni che mobilizzano appunto i cittadini catalani è quello di un invito a mantenere la calma, di manifestare pacificamente. Negli ultimi 7 anni abbiamo avuto l'11 settembre di ogni anno grandi manifestazioni con più di 1 milione di persone, in alcuni casi siamo arrivati fino ai 2 milioni e 400 mila persone, non è mai avvenuto un minimo incidente ed è questo il nostro plus come Catalogna. Quello che vogliamo è seguire manifestando pacificamente la nostra volontà. Una delle ultime mosse del governo di Rajoy è stata il sequestro delle schede elettorali dell'80%, mi sembra, è vero? Di una certa quantità. Esatto, e che farete adesso? Le ristamperete? Come andrete avanti? Avremo il 1 ottobre, l'ha detto il nostro presidente Carlos Puigdemont, i cittadini catalani avranno una scheda per poter votare e andremo con questa scheda ai nostri seggi e potremo esprimere liberamente il nostro volere. È curioso che insieme a queste schede vengono anche confiscati dei manifesti che hanno come unica parola democrazia. Non si parla di referendum, non si parla di indipendenza, c'è una sola parola, democrazia, e vengono confiscati anche questi manifesti. È quello che vi dicevo, si è passata una linea rossa. Si è passata una linea rossa, anche il Barcellona, la squadra del Barça, ha manifestato ieri solidarietà nei vostri confronti. Sono valori comuni anche al Football Club Barcellona, proprio quello della democrazia, della libertà dei cittadini di poter esprimersi liberamente e condivide con noi questa volontà. La lotta non finisce qua, voi andrete avanti. Il nostro obiettivo, le ripeto, è quello di poter votare il 1 ottobre perché è il mandato che ci è stato dato dalla popolazione catalana con delle elezioni legittime. Il Parlamento catalano esprime una maggioranza che è proprio la volontà di poter esprimersi liberamente e lo manterremo.